Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia, Andrea Zorzi qui vicino a me, ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati. Ho sinceramente perso il conto delle mete che l'Inghilterra sta sbattendo sul naso dell'Italia. Non so se oggi, anche oggi, il Cittinic Mallet potrà dire sono orgoglioso di questi ragazzi. Io sinceramente no, perché questa è una figuraccia. Stavamo prima cercando la parola giusta per definire questa sconfitta che si profila dell'Italia, asfaltata, sotterrata, non lo so. Il tabellino dice 57-13, ma la partita non è ancora chiusa. Io guarda, ripartirei dalla frase di settimana scorsa di Pino Maddaloni, che ha detto: no, chi perde non è bravo, magari si impegna molto, sì, ma non è bravo. Credo che si adatti in questo caso alla perfezione. L'impegno probabilmente c'è, la sconfitta però è talmente ampia, bravi no. Bravi no, ed è il caso di dirlo, anche perché la critica può essere anche costruttiva. Può essere distruttivo invece dire bravi comunque, si impegnano, orgogliosi di loro, eccetera. Infatti io ritornerei ancora una volta a un tema della settimana scorsa in cui non si pretende che l'Italia diventi più forte o si inventi squadra diversa. Semplicemente per chi è all'esterno, come sono io, non ho visto in questi anni di sei nazioni una lenta crescita. Poi nello sport non c'è mai una crescita lineare, si va su e giù, ma in ogni caso non ho intuito che ci fosse dietro un progetto che non ha seguito. Oggi c'è la notizia sulla Gazzetta dei litigi anche tra federazioni e club per la Celtic League. Come no? Quindi tutto questo messo insieme e i risultati non fanno pensare a un lento ma costante miglioramento, ma a una situazione che rimane standard e non ci premia. No, certo, e poi parlano i numeri, 57 partite, questa è la 57esima partita dell'Italia nella sua storia nel Sei Nazioni, iniziata nel 2000, lo ricordo, 50 sconfitte. Poi se non ho sbagliato i conti, abbiamo battuto 4 volte la Scozia, 2 il Galles e un pari con il Galles. A proposito di numeri, il conto delle mete credo lo stia tenendo Flavia Carletti da Twickenham. Ciao Flavia. Sì, buonasera a tutti. L'Inghilterra ha segnato proprio qualche minuto fa l'ottava meta della partita, 4 nel primo tempo, e adesso quando mancano circa un minuto e mezzo alla fine della partita ne ha segnate nel secondo tempo altre 4. Partita che non ha mai avuto storia, vero? Fin dal pronti via. Esattamente, tranne qualche lampo dell'Italia, ma molto breve e molto piccolo, diciamo, proprio piccole pillole nell'arco della partita, diciamo che la partita è stata completamente dominata dall'Inghilterra, tanto che nel secondo tempo è diventata anche un po' noiosa, perché in effetti come la sensazione è stata che gli inglesi quasi volessero chiuderla senza neanche troppo sforzo, e si stanno riuscendo benissimo. Si sono resi conto del livello, diciamo, la distanza tra le due squadre in questa partita è stata abissale, e quindi diciamo la partita è calata anche di tono. L'Italia non ha creato più nessuna azione, non ha quasi più avuto nessuna possibilità tranne una in questi momenti, comunque firmata quasi sulla linea di meta dagli inglesi senza troppe difficoltà, e nello stesso tempo la difesa italiana, che in altre occasioni aveva retto e in qualche modo era sempre stato comunque un punto d'orgoglio della nostra nazionale, in questa occasione ha completamente fallito. I placcaggi sbagliati sono stati tantissimi, sono ormai i numeri a 2 cifre, e anche nelle azioni, per esempio come la touche, ne abbiamo perse 8 se non sbaglio. Sì, sono numeri impietosi, a cominciare dal punteggio 59-13 mentre ancora si sta giocando, e poi a seguire il corollario dei numeri negativi. Io ringrazio Flavia Carletti da Twickenham, stadio tempio del rugby, però incredibile vedere comunque questo stadio così grande, tutto pieno. Un luogo dello sport straordinario. Anche in questo gli anglosassoni hanno una più forte tradizione nei luoghi che sono specificatamente legati ad alcune attività e diventano davvero dei templi. Sì. Andrea, temi della settimana. C'è un'Italia che ci ha risollevato il morale, no? Dalla nazionale di calcio, tutto sommato, ha giocato una buona partita in Germania con quel pareggio allo sci con Rinderhofer, che dicevo, medaglia d'oro l'altro giorno a sorpresa in Super G, e oggi ha detto, avete visto che non è stato un caso, perché oggi si è preso il bronzo nella discesa libera dietro al canadese Gue e allo svizzero Didier Kusch. Ma anche in questo credo sia l'ennesima prova che a volte si rimane un po' spiazzati, perché dall'esterno, se non si è tifosi, se non si è troppo appassionati, quello che percepiamo, lo dico personalmente, è che è come se i media dedicassero spazi che non capiamo attraverso quali sistemi ai vari sport. È chiaro che in questo caso il rugby è in prima pagina, perché una squadra che perde così tanto ha sempre 2 pagine nei giornali, così tanto spazio, e qualche altro sport, magari meno conosciuto, è vero, però con vittorie non riesce ad essere trattato più equilibratamente. Questa mi pare essere anche ciò che deve pagare il rugby, che viene a volte criticato perché dice però va bene essere famosi, va bene sui giornali, però se vinci e lo scimici, questa cosa lo è, però con certo, poca frequenza. Anche Antonietta Di Martino in settimana 2,04 è la miglior prestazione di sempre di una saltatrice italiana. Esatto. Già lei deteneva il record con 2 metri, ora questo 2,04 quindi è quest'Italia, come titolava appunto l'altro giorno la Rosa, l'Italia che si risolleva il morale. In quel giorno poi questi lo abbassano in maniera discreta, insomma. Chi abbassa la testa di nuovo, è successo anche questo in settimana, davanti all'ennesima porcheria di Ricco, è stato il ciclismo. E io continuo a domandarmi. Oggi c'è addirittura Zapatero che difende Contador, no? Dice: ma non ci sono le prove sufficienti per condannare Zapatero. Io sono dell'idea che una volta che sono state fatte prove, analisi, controanalisi, tutto quello che vuoi, l'unica soluzione, l'unico deterrente possa essere la radiazione. Continuo a pensarlo, invece squalifichi 2 o 3 anni che alla fine possono tradursi in una sorta di affare per un ciclista. Però, mia idea questa. Io aggiungo solo che sono particolarmente preoccupato perché non c'è nessuna logica dietro ciò che accade. Nel caso di Ricco in modo speciale, non possiamo pensare solo alla malafede, non possiamo pensare solo... È proprio insensato ciò che avviene. Perché ciò nonostante avviene con così grande frequenza? Solo perché c'è la pressione, solo... E quindi per quello diventa molto complicato avere un'opinione e anche una strategia da seguire nel caso del doping, perché evidentemente l'ambiente ti fa perdere il senno e non sei neanche più in grado di riconoscere cos'è dannoso, fortemente dannoso per la tua salute. Questo per me è molto preoccupante, perché potremmo invece parlare e discutere se avessimo dei termini logici, certo, razionali. Non è questo ciò che ormai caratterizza il mondo del doping. Certo. Dunque adesso ci fermiamo, intanto è finita, si è fermata per fortuna anche la partita 59-13 con 4 mete per tempo degli inglesi, qualche calcio piazzato di Bergamasco per l'Italia, ma è stata una lezione durissima per l'Italia e per il nostro rugby. Traffico, poi appunto analizziamo nei dettagli questa partita e poi abbiamo molti altri argomenti, dal gol pazzesco che ha fatto oggi Rooney nel derby di Manchester, che l'United ha vinto 2-1, sempre per la cronaca, gol in rovesciata di quelli che finiscono direttamente in copertina, no? Negli highlights, sulle copertine degli album dei calciatori, gol mostruoso. Ci fermiamo, traffico. Speciale 6 nazioni. Dunque torniamo con questa severissima lezione 59-13 che l'Inghilterra ci ha rifilato. Vedo già ascoltatori in linea: Angelo da Pordenone, Marco dalla provincia di Cuneo, qui con me Andrea Zorzi, poi c'è Giacomo Bagnasco in linea, lo stesso Dario Ricci in linea, insomma happening radiofonico per commentare questa sconfitta. Tra poco sentiremo anche le voci attraverso i microfoni di Sky. C'è Mario da Milano che scrive: togliamoci dal 6 nazioni, semplicemente non lo meritiamo, eccetera eccetera. Vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori, cosa dice Andrea. Intanto saluto Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo. Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. È un 59-13 che fa molto male, abbiamo detto per tanto tempo, ormai da qualche anno, che l'Italia era in grado quantomeno di limitare i danni con una buona difesa, eccetera. Oggi questo non è successo. C'è da dire che l'Inghilterra ha giocato con il piede sull'acceleratore dall'inizio alla fine, l'Italia ha accettato la sfida di contro questa formazione che continuava a giocare tutti i palloni, che praticamente non si è mai affidata al gioco al piede. Con l'Italia ha accettato la sfida, ha provato ad allargare il raggio delle proprie azioni, probabilmente ha fatto a male. Il risultato 59-13, il primo tempo 31-6, 8 mete a 1. Gli azzurri hanno resistito 20 minuti, poi abbiamo visto il gioco decisamente superiore dell'Inghilterra, certo, questo grande flood. Beh, ma io vedo gli altri che si passano la palla e che corrono molto banalmente da un non intenditore. L'Italia non si passa la palla, non corre con la palla in mano. Sentiamo Semenzato con Sky. Dove basti questo, no? È inutile guardare l'individuale su un risultato del genere. Anche se ho fatto il mio, probabilmente non è bastato. Il risultato, ripeto, parla da sé, basta. Grazie mille Fabio. Tani, a voi. Questo era Fabio Semenzato, esordiente di giornata. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Pessimo pomeriggio, eh? Se non fosse stato per il gol di Rooney che mi hai prontamente segnalato oggi pomeriggio. Guarda, no, mi ha strappato dal divano quel gol di Rooney. Ero già in una fase calante dell'immediato dopo pranzo, quel gol mi ha risvegliato, è stato veramente una cosa straordinaria. Sì, cross dalla destra e sforbiciata di Rooney che insomma è rimasto strabiliato anche Andrea Zordi. Dobbiamo preoccuparci per la salute di Dario Ricci che era così comodamente seduto nel divano. E poi ha visto il gol di Rooney, poi però è tornato a sedersi sul divano davanti a Inghilterra Italia e credo sia ancora lì. Tutti i bioritmi pomeridiani. Al resto, l'altra volta del pomeriggio ci ha poi pensato l'Inghilterra perché ci eravamo scambiati un SMS, Carlo, sì. Ti ricordi? Dicevamo andiamoci a prendere queste 10 mete, siamo arrivati a 8, in realtà i primi 20 minuti, come sottolineava anche Giacomo, sono stati anche affascinanti per alcuni aspetti perché abbiamo provato a fare un rugby diverso dal solito, fatto di molte fasi offensive anche se non conquistavamo metri, poi in realtà si è vista tutta la differenza che c'è proprio fra i due movimenti, fra le due filosofie di gioco, fra le due rose, veramente questi sì, 60-1 punti, certo, magari anche tra i due modi di gestire il rugby, perché insomma non mi sembra che anche la stessa Federrugby, molto ricca, ricchissima, la più ricca tra le federazioni, con gli introiti che derivano puntualmente da un Sei Nazioni in cui siamo blindati, beh, mi sembra che insomma non si perda occasione per litigare dall'ingresso in Celtic League, che è stato secondo me gestito male senza alcun risultato evidente, a molti altri aspetti. Ma io sono curioso anche di sentire la voce degli ascoltatori. 800240024. Angelo da Pordenone, buonasera. Salve. Dica. Io non sono un tecnico, però chiedevo anche la collaborazione dei vostri ospiti. Una domanda mi sorge veramente spontanea: perché continuano a tenerci nel torneo delle Sei Nazioni se dopo anni e anni continuiamo a avere prestazioni così deludenti? Il naufragio di oggi è proprio emblematico. Mi dà l'idea che ormai il rugby sia diventato in Italia più un fatto di marketing. Fare complimenti a Federazione Lega che lo hanno saputo lanciare e impostare bene, con anche ritengo grande soddisfazione da parte dei vari sponsor, però dopo tanti anni i risultati pratici non è che ne stiano arrivando. No, ma ha ragione, ma soprattutto non, come diceva prima Andrea, non si fa lo straccio di un progresso, no? Ormai da molte stagioni, cioè l'ultima stagione in cui abbiamo avuto l'illusione di essere un po' cresciuti è quella del 2007, l'ultima di Verbisé con quelle due vittorie anche un po' ingannevoli con Scozia e in Galles. Il Sei Nazioni è un prodotto pregiato, no Andrea? Si riferiva al marketing, il nostro ascoltatore. Il Sei Nazioni è un prodotto pregiato, rimaniamo lì nel giardino a dispetto dei Santi, poi a dispetto di non so chi, insomma, però ci restiamo e senza possibilità di equivoco. Questo meccanismo un po' anacronistico, l'abbiamo detto molte volte, non credo aiuti nella crescita del rugby perché non ti porta stimoli. Aggiungiamoci un contesto, quello italiano, che è sempre stato molto buonista nei confronti della nazionale di rugby, ed ecco che perché dobbiamo crescere, tanto siamo lì in poltrona. Questo è corretto, cioè c'è una questione di equilibrio, forse di giustizia anche, però non vorrei adesso spazzare via per le tante mete, per le 8 mete degli inglesi, anche quelli che erano a prescindere dai grandi risultati. Vi ricordate gli 80.000 spettatori di San Siro, sì. Italia e Nuova Zelanda? A prescindere, quando uno sport che non sia il calcio in Italia ottiene questi risultati, va comunque preso in considerazione. Si era detto anche che correva un rischio il rugby, quello di essere salito troppo in alto, e se non era in grado di sostenere questo tipo di livello rischiava di cadere giù. Adesso le tante vittorie fanno dire, secondo me sensatamente, ma perché c'è così tanta attenzione? È solo una questione di marketing? Anche perché di solito o la diffusione nel territorio o la popolarità o le vittorie devono esserci. Eh sì. Una di queste tre ci deve essere. Se no, perché? Nell'hockey su prato, anzi scusa, nella pallamano si vince, quindi insomma. E il rugby invece in questo momento non sta garantendo né la diffusione sul territorio né i risultati. Il marketing funziona piuttosto bene, però poi devi anche sostenerlo. Marco, provincia di Cuneo, poi sentiamo anche Giacomo e Dario. Sì, un saluto a tutti. Vi voglio agganciare un secondo l'ultima cosa che ha detto Zorzi. Cioè, gli 80.000 di San Siro, anche a vederli due a Torino, Madonna, Roma, si riempie lo stadio. Però credo che queste continue sconfitte, al di là di un po' di pubblicità con i personaggi... Io non sono un tecnico, un appassionato del rugby, però comunque mi interessa lo sport e mi stavo un po' avvicinando. Ma queste continue sconfitte fanno disamorare, penso, la gente come me a uno sport dove prendiamo bastonata a destra e a sinistra. Cioè, credo che sia controproducente andare avanti, se non dal lato dal punto di vista economico, quello sì, certo. Sì, sì, sì. Però per la passione degli italiani non ce l'abbiamo nel DNA. È inutile sforzarci e non possiamo appassionarci a uno sport che non è nostro. Cioè, ce lo facciamo nostro per comodità, ma fondamentalmente non è nostro. Lo ringrazio. Grazie a lei, Marco. Grazie a lei, Marco. Trovo particolarmente significative questi interventi che arrivano con una premessa. Cioè non sono un tecnico, non sono un appassionato di rugby, ma è uno sport che mi attira. Ed è questo, io credo, il bacino d'utenza a cui dovrebbe puntare il rugby. È questo il bacino d'utenza che il rugby, con queste figuracce, sta perdendo. Giacomo. Sì, guarda, Carlo, su certi aspetti possiamo essere ancora più severi. Oggi c'è stata una cosa veramente sconcertante. Su 12 rimesse laterali l'Italia ne ha perse 9. È una controperformance che io non ricordo. Possiamo dire che questo 59-13 è il peggior risultato di Mallet in assoluto. Questi 46 punti di scarto e questi 59 punti non arrivava un risultato così pesante da quasi 4 anni, da Nuova Zelanda e Italia dell'8 settembre 2007. Tutto questo lo possiamo dire, però io alcune cose le direi. Non possiamo dire che siamo comodamente nel Sei Nazioni, perché comunque i giocatori in campo danno sempre tutto. Non possiamo dire che sulla diffusione sul territorio abbiamo fallito, perché lì dobbiamo dire che ci sono decine e decine di località e di province dove il rugby non esisteva e dove adesso esiste, dove ci sono tantissimi bambini, soprattutto spinti dai loro genitori, che vengono a giocare. Non possiamo dire, credo neanche, che non è uno sport nelle nostre corde, o meglio, io credo che Andrea Zorzi possa ricordare i tempi in cui è arrivato Velasco come allenatore della pallavolo italiana. Velasco diceva che in Italia si pensava che non fosse possibile andare a vincere nei paesi dell'est, diceva che c'era una cultura dell'alibi. La pallavolo italiana, io credo, abbia fatto una rivoluzione in quegli anni e probabilmente fino allora qualcuno poteva dire che non era nel DNA degli italiani. Quindi io dico, questa è una sconfitta veramente pesante. Oltretutto ci si può interrogare su tutta, diciamo, l'impalcatura che era stata data da Mallet, che comunque poteva vantare il fatto che quantomeno l'Italia con la sua difesa riusciva a limitare i danni. C'è stato un errore gravissimo, probabilmente anche nel modo di affrontare la partita. Detto questo, come tu sai Carlo, io ho pensato e ho detto diverse volte che bisognerebbe dare alle squadre del Sei Nazioni B la possibilità di provare arrivare nel Sei Nazioni vero e proprio. Ti dirò che su questo aspetto non credo che sia tanto l'Italia a essere contraria, ma i vari Galles e Scozia, che ogni tanto rischiano di arrivare ultimi e potrebbero magari, anche giocando un playoff in casa, perdere dalla Georgia di turno. E dal loro punto di vista può essere comprensibile, perché hanno un ricambio così vasto che ci può stare una stagione di transizione per essere subito competitivi al massimo livello nel giro di due o tre anni. Io credo che per loro sarebbe addirittura impensabile, e certo, anche con un po' di snobismo eccetera non penserebbero assolutamente di poter cedere. Certo, io volevo sentire Andrea invece su quanto diceva Giacomo prima. Condivido totalmente sia l'analisi sulla pallavolo, che effettivamente ha avuto la possibilità di togliere molti alibi e di dire che l'Italia non era abbastanza alta per vincere. C'erano un sacco di scuse e si è fatto. Io credo che il rugby, lo ripeto sinceramente, abbia permesso all'Italia di scoprire qualcosa di nuovo. Si gioca più a rugby, si conosce uno sport che comunque è pieno di valori. Quello che mi preoccupa un po' è che nella percezione generale l'effetto marketing è molto molto evidente. gli 80.000 di cui si parlava prima a San Siro sono quelli che vanno anche ai concerti di Madonna. Amici ha fatto aprire un sacco di accademie di danza in giro per l'Italia, però è come se in questo caso la ragione fosse l'opportunità di guadagno, di marketing, di popolarità, quando invece io penso che con fatica occorre fare il processo contrario, e cioè riuscire ad attecchire nel territorio, fare buoni risultati, e a quel punto ti sei meritato la visibilità su tutti i media. Dario Ricci. Che proviamo a vedere un attimo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che il fatto che questa passione sopravviva e esista malgrado i successi può anche essere inteso come un processo di crescita, di maturazione di un certo tipo di tifo, no? che anzi spesso invochiamo, e che quindi magari attraverso il rugby ha trovato anche una sua forma d'espressione, insomma il tifoso che riesce a essere tale prescindendo dal risultato, anche se qua insomma la deriva è abbastanza pericolosa. E poi un altro elemento che condividevamo anche con Giacomo in questi giorni parlando di palla ovale, a vedere la programmazione TV del Sei Nazioni, se vedete appunto noi siamo fissi alle 15:30, cioè un po' ai margini di quello che è il calendario che poi alle 18, alle 20:30 abitualmente presentagli le sfide principali, quindi fuori dal peak time. Esattamente, quindi qualcuno insomma già aveva ben presente il valore di questa squadra e le sue possibilità. Certo, io ringrazio Giacomo Bagnasco e Dario Ricci, mi tengo qui invece Andrea Zorzi, vorrei anche sentire Vanis da Bologna, che è un altro ascoltatore in linea, 800240024, prima del break che ci attende. Vanis, buonasera. Buonasera. Dica. Prima cosa volevo salutare Zosi, il mio idolo degli anni passati. Anche mio. Hanno fatto vedere cose incredibili sia a livello giocato che parlato, insomma. Sì. Poi volevo parlare del rugby dicendo che in Italia non è facile, dove tutto è calcio. Quello che non è calcio, l'altro sport, fa veramente fatica ad esistere, insomma. Poi diciamo, vabbè, le differenze tecniche ci sono e cose del genere, ricordiamo le figure che abbiamo fatto ai mondiali di calcio, vuol dire, non buttiamo la croce addosso a questi poveri ragazzi. Certo, oggi è stata una bastonata di quelle che passeranno la storia. Sì, però questo sono 50 dire. Su 57. Cavolo ragazzi, lo so, cosa facciamo? Non lo so. Non lo so nemmeno io. È veramente frustrante una cosa del genere, però in Italia, ripeto, quello che non è calcio è quasi impossibile. Volevo aprire una parentesi velocissima su quello che avete parlato prima riguardo Ricò, che ha fatto una porcata terribile, io lo manderei sulla luna a correre a piedi, non in bicicletta, e però voglio dire, facciamo l'antidoping anche negli altri sport, non solo nel ciclismo. Tutto questo. Perché il ciclismo è veramente... Io sono un amatore che mi faccio 15.000 km all'anno, passi per strada, drogato, cose del genere, avete capito? Forse è l'unico sport dove si fa veramente tanto antidoping. Sì, diciamo anche questo, ha capito? Poi dopo, no, ripeto, ma questo l'abbiamo detto moltissime volte. Questo signore ha fatto una porcata che secondo me va radiato immediatamente. Ma vanno radiati tutti quelli che vengono pescati, ma non la terza volta, la prima. Perché quello è un deterrente che potrebbe funzionare. La squalifica di 2 anni è un deterrente che, ci sono le prove, mi pare, non funziona. La replica dopo. Razzoli, si fa sentire Nick Mallet, CT della Nazionale di Rugby. 11-12 touch, Pedro, credo abbiamo perso meno 6-7-8 touch sui nostri lanci. Allora alla fine abbiamo fatto troppo di difesa contro una squadra che hanno calciato poco, hanno tenuto la palla in mano e loro hanno i giocatori veloci e abbiamo visto che uno contro uno abbiamo sbagliato le placcaggi uno contro uno. C'è un giocatore italiano che può placcare, chi era in posto, ma ha sbagliato le placcaggi. Allora sono due cose, le nostre chiamate in touche non ha funzionato, anche le lance del nostro allenatore. Settimana scorsa è stato molto buono il nostro touche, oggi veramente disastroso la difesa uno contro uno non è abbastanza aggressivo contro i giocatori forti come gli inglesi. Resettiamo tutto, allora non pensiamo più all'Inghilterra, la testa adesso va al Galles. Come si prepara questa partita? No, ma veramente abbiamo pensato che sì, giochiamo bene oggi, puoi tenere l'Inghilterra più in vicino, perché la nostra squadra non è 50 punti peggiori che Inghilterra. Inghilterra ha fatto una gran partita, ma abbiamo aiutato Inghilterra con una difesa abbastanza debole e uno contro uno, cioè le placcaggi abbiamo sbagliato uno contro uno e dopo le touche. Abbiamo perso, loro hanno vinto credo 80% delle palle lanci in touche, e questo è impossibile di giocare dopo. Un'ultima domanda per magari far così Nick Mallet, così Nick Mallet che prova ad analizzare gli errori dell'Italia. Massimo, provincia di Chieti, poi Paolo da Salerno. Buonasera Massimo. Buonasera, sono Massimo. Ma perché non proviamo a mandarlo a casa il Nick Mallet? Visto che dà la colpa sempre ai giocatori. Io non ho visto ancora, l'andrò a vedere tra poco sulla 7. Sì. Però la cosa che mi spaventa non è il disavanzo col quale abbiamo perso, è che abbiamo perso 8-1. Significa che loro hanno un attacco fortissimo, noi abbiamo... Sì. La sento male Massimo, se ha altro da fare forse è meglio. Questa partita dopo due minuti era già finita a metà dell'Inghilterra. Ma perché non lo mandiamo a casa Nick Mallet? Per quanto mi riguarda è una domanda un po' troppo specifica, nel senso che, come hai notato, in genere quando chiacchieriamo di rugby cerchiamo di guardarlo un po' dal di fuori. Credo sia l'unico tipo di apporto che io posso portare al rugby, perché di tecnica non ci capisco nulla e quindi non ho veramente idea di quale sia il merito o il demerito di Mallet. È ovviamente coinvolto perché la nazionale non va bene in queste sei nazioni, ma poi non ho idea se i problemi siano suoi di gestione, tecnici, tattici. E quindi mi limito a guardare dall'esterno. L'ascoltatore però ne faceva una questione di assunzione di responsabilità forse. Ma l'altra volta ha detto che hanno giocato molto bene, quindi non ha scaricato direttamente la responsabilità sui giocatori. Non mi pare che lui si distingua per essere quello che quando si vince abbiamo vinto e quando perdono hanno perso gli altri. Semmai ha difeso fin troppo, anche a volte in modo non troppo credibile, i suoi giocatori. Questo mi pare essere un problema, ma per il resto mi pare che questa sia una scelta, per quanto mi riguarda, troppo specifica. Certo, certo. No, non ci credo, neanche la PlayStation Rooney può fare un gol del genere. La Sony ha trovato un nuovo spot per la console. Infatti, caro bravo Andrea Zorzi. Infatti la metteranno tra le mega azioni leggendarie della console adesso. Io non ne so nulla e quindi ho pensato subito alla copertina dell'album delle Figu. Eh sì, è no, vero, è vero. Giochi, per me i giochi sono un pianeta sconosciuto. Era Rivera, se non mi sbaglio. Com'è? Credo fosse Rivera quella, la foto. Piola, mi pare. Piola, okay. Sì. Però sai, qualunque album, cioè è proprio una foto d'album di copertina, cioè che fa questa rovesciata simile a quella peraltro a quell'icona molto famosa, impatta benissimo la palla. Un giocatore, ne parlavamo prima, non programma un colpo di quel tipo, a un giocatore di grande classe riesce un colpo di quel tipo. È come se quel tipo fosse un cassetto nascosto che si usa una volta ogni tanto quanto capita, eppure oggi Rooney ha avuto quella lucidità, quella capacità di aprire immediatamente, velocemente quel cassetto e fare la cosa giusta al momento giusto, cosa che accade molto raramente rispetto ai gol che si fanno di testa, di piedi, di destra, di sinistra, di petto, in rovesciata così si fa poche volte. Anche la pallavolo succede, Sì, succede. Sono un po' meno spettacolari perché le finezze sono un po' più tecniche. Certo. E quindi se guardi un muro vedi il colpo del campione che non ti aspetti, che ti spiazza, che ha un'intuizione, no? Velasco diceva questo: io dai miei scacciatori vogliono che abbiano un file con un sacco di soluzioni e siano velocissimi a scegliere la soluzione migliore. Questo chiedo ai miei giocatori. Certo, tu ci riuscivi. Non avevo tantissimi file, alcune prevalenze ce l'avevo. Colpire la palla in alto è più forte possibile, però molto in alto. Paolo Salerno, buonasera. Buonasera, siete talmente interessanti insieme nelle vostre competenze che a uno sportivo come me, seppur dilettante, gli verrebbe di parlare di tutto, ma proprio di tutto voi. Allora? Complimenti. Andiamo avanti, chiaramente. Andiamo avanti. Allora non ci lasci, che tra un po' c'è qualcosa di interessante anche su altri sport. Ci provo. Tra poco gliene raccontiamo una bella. Sì, io starò ad ascoltarvi, sono in autostrada tra Roma e Salerno, per cui avrò il piacere. Premesso che alla PlayStation sarà per l'età, ho 41 anni, preferisco il subbuteo, perché è molto più geniale rispetto allo stare a drogarsi davanti a un monitor, ma è solamente la mia idea. Anche io la mia comunque, per inciso, ma fa niente. Il subbuteo senza il back, chiaramente, cioè senza le innovazioni. Certo. Comunque, due cose velocissime, ci provo. Rugby, secondo me è un errore provare a uscire da sei nazioni. Ovviamente non parlo di soldi, perché non mi riguarda. Ma come appassionato, e poi perché storicamente quando io giocavo dalla scopa alla briscola, al tennis, a ping pong, giocare con chi è più forte, sicuro, e solitamente ti dà una chance, sì, anche emotiva, secondo, sì, me, no? Cioè, sì, da un punto di vista proprio di spessore tuo, di migliorarti, se, certo, dentro c'hai qualcosa, chiaramente. Il secondo aspetto è Cantù. Mm. Io sono tifoso della Salernitana, forse ho chiamato anche qualche anno fa, a un venerdì probabilmente, alle 2, sì, a tempo di basket, se non, sì, sbaglio. Palla spicchi. Voglio dire, Cantù è, sì, esatto, Cantù è una splendida realtà, con Arrigoni, con la società, insomma, io mi ricordo Antonello Riva, Innocentini, Marzorati, però devo dire una cosa, che se riescono a non smantellare la squadra per una serie N di motivi che non mi competono, ma che da buon tifoso, diciamo, seppur, certo, da uomo del sud, mi appassiona, se migliorano sui tiri liberi e riescono a essere un po' più equilibrati in alcuni momenti delle partite, io, guardi, visto Avellino e Caserta, io gliela faccio corta. Cantù è la squadra che gioca la miglior pallacanestro in Italia, e ci metto dentro anche Siena, perché Siena ha un materiale umano che comunque la porta ad un altro livello sul piano strettamente cestistico, della tecnica, della tattica, dell'organizzazione, eccetera. Cantù è quella che gioca meglio in Italia. Poi stasera la vediamo in semifinale, magari perde, smentisce tutti. Traffico, poi è già arrivato un altro ospite, e poi vi raccontiamo una storia bellissima. Anche a Mario Salvini, penna eccellente della Gazzetta dello Sport, che ci ha raggiunto telefonicamente, volevo far sentire, così poi ne parliamo insieme, questa scheda di Cristiano Bartelloni, questa storia. La scorsa settimana è stata giocata una partita vista in diretta da 111 milioni di spettatori, in cui la famosa cantante Cristina Aguilera ha confuso le parole dell'inno nazionale e il team vincitore ha festeggiato con dei cappelli a forma di fette di groviera. Non è un film, né un fumetto, è il Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano. Lo sport negli States è un caleidoscopio dove è labile il confine tra realtà e finzione. Domani sarà l'undicesimo anniversario di un altro match indimenticabile. Una celebre squadra di baseball gioca l'ultima partita della sua storia. La formazione è assolutamente incredibile. Un catcher che ama Beethoven, un esterno destro intrattabile, un giocatore che non si separa mai dalla sua amata coperta e un cane come interbase. Il capitano è un bambino dalla testa tonda. Il suo nome è Charlie Brown. Durante i 50 anni in cui sono state pubblicate le strisce di Peanuts, il team non si è mai distinto per la sua competitività. Ha infatti perduto 930 match, vincendone solo due. La punta di diamante della franchigia è senz'altro il cane Snoopy, capace di insediare il mitico Babe Ruth per il record di fuori campo. Il brachetto non riesce a iscrivere il suo nome nella Hall of Fame solo a causa di un banale errore di Charlie Brown. E volevo sentire da Mario Salvini, grande conoscitore, grandissimo conoscitore, appassionato di sport americani, di baseball in particolare, quante strisce di Charlie Brown ha letto in vita sua? Sono innumerevoli, tutti. La cosa meravigliosa è che le strisce di Charlie Brown e le strisce dei Pinus erano perfettamente leggibili e ritrovabili un po' ovunque, anche sui nostri quotidiani locali. Sì. È una realtà americana, una realtà per quello che racconta, americanissima, per quanto riguarda lo sport ha parlato sempre tanto di baseball e anche di football, però al tempo stesso era perfettamente fruibile da tutti in, mi pare, oltre 70 paesi. Sicuramente da noi lo era, e lo era sui nostri quotidiani locali. Io ho imparato, sì, sul, sì, quotidiano della mia città a leggere le strisce dei Pino su più giorni. Ricordiamo Mario, tanto ti saluto, ricordiamo che Mario è di Parma, sì, baseball, certo, e Parma sono, anzi, dov'è la città dove si gioca il miglior baseball? L'unica città in cui si gioca a baseball, no, si gioca a baseball purtroppo, no, si gioca da tante parti ed è molto più diffuso di quello che si tende a pensare. Le città di vertice e le città con i più importanti vivai rimangono immutabilmente le stesse 5 da tempo immemorabile in Italia, e sono Parma, Nettuno, Grosseto, Rimini, Bologna, non necessariamente in questo ordine, ovviamente. Certo. Adesso coinvolgiamo Mario per un'altra storia. Allora, non è una parolaccia, ma il blog che Mario Salvini gestisce all'interno di Gazzetta.it si chiama Che Palle. Sì. Perché ci sono palle da tennis, palloni da calcio. All'interno di questo blog c'è una storia bellissima di qualche giorno fa legata al baseball, sì. Ma chiediamo a Mario di raccontarsela. Però io vorrei partire con l'incipit di questo di quanto ha scritto Mario. Una storia dedicata a Riccardo Riccò si intitola, che non ha nulla a che fare con Riccardo Riccò, ma adesso la facciamo raccontare a lui. Però quanto ha scritto inizia con queste parole: ce li avrei gli aggettivi per descrivere quel che penso di Riccardo Riccò, di tutto quel che ha fatto, non solo questa settimana. Ma oltre a non essere così rilevante quel che penso io, oltre ad essere certo ben poco autorevole, di sicuro potrebbe procurarmi una querela. Prego, Mario. Sì, sicuramente credo di essere rimasto indignato, come penso lo siano rimasti tutti gli sportivi. Poi è inutile andare a fare una condanna ad persona, a chi credo che la condanna se la sia scritta da solo, e non è nemmeno tanto utile continuare a puntare dito contro una persona. Credo che ci sia un sistema che non funzioni. Con questo non voglio dire che tutto il ciclismo è coinvolto, che tutto il ciclismo è la stessa cosa, certo. Non mi sogno né di dirlo né di pensarlo, naturalmente. Questa storia è credo veramente al di là dell'immaginabile e dell'umano, e credo che forse più si va verso il basso, più si va verso, tra virgolette, forse uso una parola troppo grande, errazione, forse sarebbe il caso di svegliarsi tutti e dire: attenzione, cioè, cerchiamo di uscire da questo tipo di mentalità. Dopodiché non sono certo un esperto di ciclismo, come ho, certo, come ho scritto. Però questa storia, Mario, tanto per ricordarla, è quella di un ragazzo di 19 anni, Kevin Jordan, che è un giocatore di baseball, giocava Wake Forest University, scelto nel draft dai New York Yankees, problemi fisici gravi, disfunzione renale, dialisi, problemi grossi, necessità del trapianto di un rene. Alla fine il rene chi gliel'ha dato? Il rene glielo ha donato il suo allenatore, io credo che sia un atto di demore, non vedo come altro definirlo, più grande non so immaginarlo, ed è capitato esattamente lo stesso giorno in cui è venuta alla luce questa storia di Riccò, da qui la riflessione, niente di più, non c'è nessun legame, solo una riflessione in chi osserva le cose di sport e si è trovato davanti a queste due storie nel giro di poche ore. Un ragazzo che va in blocco renale e rischia di morire, un altro ragazzo che era in una situazione analoga, certo non per le stesse ragioni, ha fatto nel corso della scorsa estate, questo ragazzo Kevin Jordan, una progressiva che è andata avanti molto rapidamente, che lo ha portato ad avere meno del 10% della funzione renale. Nessuno dei suoi parenti stretti era compatibile per il trapianto, si è fatto avanti l'allenatore, si è rivelato essere compatibile, e il giorno 7 di febbraio hanno fatto l'espianto e il trapianto. Quindi ora John ha un rene del suo allenatore, il suo allenatore sta abbastanza bene, si chiama Tom Walter, ed dice nell'arco di 2 mesi conto di ricominciare a comportarmi sul campo come ho sempre fatto. Mi hanno assicurato che sarà possibile, sono fiducioso, a me basta solamente fantastica questo. Speriamo che Riccò la legga e magari la appenda nella sua cameretta. Mario, ti ringrazio. Sì, io ringrazio voi. Un abbraccio. Ciao Mario. Ciao, grazie a tutti. Che ci ha aiutato a raccontare lo sport americano attraverso il Super Bowl. Ah. 111 milioni, l'evento televisivo più visto nella storia degli Stati Uniti. Attraverso la partita di Charlie Brown, che non ne vince una neanche per sbaglio, e poi una storia di baseball. Ah, ragazzi, quel ragazzo lì, Kevin Jordan, è stato scelto dai New York Mets. Yankees. Quindi è la squadra più famosa del mondo, vedi tu. Andrea, no, io parlo di Super Bowl, gli americani lo vivono nella maniera che tu sai, che abbiamo provato a raccontare, poi c'è Inter-Juventus che tutte le volte puzza di cattiveria. Sarà una banalità, sarà retorica, però mi viene da dirlo, insomma, domani la vivremo insieme. Io mi scuso con tutti gli ascoltatori che mi hanno corretto con 100.000 sms, non è di Piola, Andrea Zorzi, no. Come ho detto io, una stupidaggine di Parola, Carletto Parola. confuso i nomi. Mi scuso con grazie. Tutti, grazie anche a te, Andrea. Ciao a tutti, alla prossima. Giorgio De Luca in redazione, Cristiano Bartelloni, Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio dalle 16.30. Partiremo con lo sci, e mi sembra il caso, e poi col calcio fino alle 19, e poi 20.30, 21 basket, c'è la finale di Coppa Italia domani sera. A domani.